due. Uno, si marcia, perché stasera c'è da stupire i grandi della terra. Intanto mi ha raggiunto Totano, il mio assistente, che questa sera abbiamo avuto un piccolo problema. Ma come dico sempre io, si fa di un problema un'opportunità. Vero Totano? Sì. Perché la maggior parte dei nostri ospiti gradisce la cucina vegana. Come dice il detto, la cucina vegana è la moglie di Totano. Allora eri sveglio, pensavo che dormissi. Allora, andiamo subito a presentare i piatti? Che dici Totano? Andiamo, vieni con me, forza. Sveglia, sveglia Totano. Guardate che meraviglia, guardate che meraviglia. Allora, come antipasto siamo andati ad immaginare, no? Una carota basita al cospetto di smeraldi di zucchine che per l'emozione, diciamo, si sporca, no? Di una roba di caffè 100% arabica. In questo piatto abbiamo deciso di chiamarlo San Smell, la Madonna! Primo marzo, no. Poi andiamo avanti. Il primo siamo andati a pescare dalla nostra grandissima tradizione emiliana. Quindi parliamo di una destruttura di tortellini di seitan in brodo d'acqua vergine, è affogato in una mareggiata di panna di soia bemolle. Questo piatto ho deciso di chiamarlo Nonna, perdonami. Ti prego. Secondo, salti in bocca. State buoni che non c'è la carne. Parliamo praticamente, siamo andati ad affrescare, no? Siamo andati ad immaginare delle polpettine di tofu rimbalzate in ibridazione di amido di patate che saranno servite dal nostro cameriere di sala Salvatore, saranno portate direttamente alla bocca dei nostri posti. Da qui il nome Sal in bocca. Ma questa è un'idea della Lorella. Andiamo avanti. Il dolce, tiramisù, che però non è tiramisù perché siamo andati a sostituire degli ingredienti. Abbiamo tolto le uova, abbiamo tolto il latte, abbiamo tolto il mascarpone e l'abbiamo sostituito con una spuma di nostra ideazione, ovviamente a base di Gatorade. Questa schicchera, no? Questo schiccherone che ci porterà dritti verso mezzanotte, dove serviremo, come da tradizione, il cotechino. Il cotechino noi quest'anno lo proponiamo nascosto, nel senso che oggi l'abbiamo cucinato, oggi pomeriggio, e poi l'abbiamo nascosto, se lo trovano bene. Comunque il cotechino è fatto con le lenticchie, no, non con le lenticchie a fianco, dentro stanno, al posto della carne ci sono le lenticchie, capito? Adesso non è che io ce l'abbia su con i vegani, però c'è una roba che non capisco, perché vogliono chiamare le loro robe con gli stessi nomi, con i nomi già esistenti? Capito? Voglio dire, noi abbiamo l'hamburger di carne, loro c'è l'hamburger di stabio, no? Di biada, ma perché lo devi chiamare hamburger, dico io? Ma chiamalo in un altro modo, no? Hai una visione diversa dell'agroalimentare, allora inventa anche nuove forme, dico io. Bisogna essere coerenti nella vita, non è che sono tutti come Totano, per esempio. C'è da mangiare la carne, mangia la carne. C'è da mangiare le foglie, mangia le foglie. C'è da andare a cagare, Totano, va a cagare. Visto? Non è creativo, però esegue bene gli ordini. Scusate, sto divagando. Mia moglie mi dice di non divagare, perché altrimenti la gente si disconnette dalla diretta. Ma io non è che ci capisco da tanto di internet, di Facebook, di social. Io ho fatto l'alberghiero. Mio nonno diceva che se uno faceva l'alberghiero era come se aveva meno della terza media, era come tornare indietro, capito? Invece mia nonna mi ha insegnato a cucinare, sì, altro che alberghiero. Mi ricordo quando ero piccolo mi faceva impastare. Una volta, questo è un episodio, una volta stavamo impastando, io per provare una cosa nuova ho messo del sale nell'impasto delle fettuccine. Lei se ne è accorta, è venuta da dietro alla chetichella e pam, mi ha dato un papagno di quelli che sono svenuto. Quando sono rinvenuto mi sono trovato legato alla sedia con davanti un piatto di pasta industriale scotta e scondita. Sarà stato un mezzo chilo, me l'ha fatta mangiare tutta. Uno certe cose non le dimentica, capito? Un'altra volta invece ho messo il latte nella frittata, Lì se ne è accorta, invece mi ha fatto una carezza, mi ha dato anche 5.000 lire, era fatta così. Mi vedesse stasera, stasera cucino per i grandi della terra, il G8, che poi non è proprio il G8, perché uno è dovuto andare via. Diceva che c'era una rivoluzione nel suo paese, è dovuto scappare, ma secondo me si è andato a rifare la tinta. Comunque sono giorni e giorni che parlano, sono venuti a mangiare da me, parlano di una nuova guerra. Li ho visti stamattina dal vivo, sembrano il Circo Medrano, è vero Franco? Con la Lorella in mezzo che si faceva i selfie, le hanno dovuto sequestrare il cellulare. Ma perché non ve l'ho detto? Ah, non vi ho detto la cosa più importante. La Lorella stasera sta al tavolo con loro, perché loro hanno voluto dare questo messaggio che ce l'hanno sempre presente chi è il popolo, capito? Un segnale di distensione. Allora, c'è da dire una roba. Questa mattina la bilancia di casa mia segnava 110 kg. Poi la Lorella è scesa. E lei è contro l'anoressia, è per quello che è così. Così. Così. Comunque perfetta per rappresentare il popolo. Vediamo intanto cosa hanno combinato questi qua. Allora, vediamo un po'. Allora, questo va bene? E questo pure. Bravo, Tottano. Vai. Vai in sala, vai. Mi raccomando. Oh, cos'è che stavo dicendo? Ah, l'alberghiero, no? Dopo l'alberghiero sono andato a lavorare in una pizzeria. Pizzeria da Vito. Allora, Vito c'aveva una particolarità. Vito pippava tantissimo. Tant'è che lo chiamavano Vito Maradona. Non aveva mai toccato un pallone in vita sua. Insomma, un giorno ci avevamo su niente in cucina, no? Allora faccio una bella lista e lo mando a fare la spesa. Solo che quel giorno stava troppo su di giri e invece di tornare con la spesa è tornato con una Corvette. Carta da zucchero, decappottabile. Mentre tornava faceva: sì, lo so, ho sbagliato. Ho capito, Dio buono, è sbagliato. Ma non abbiamo niente in cucina. Cosa facciamo? Allora cosa ho fatto? Ho fatto di un problema un'opportunità. Ho preso tutti gli avanzi che c'erano in cucina e li ho messi su un impasto della pizza. Abbiamo servito questa pizza con gli avanzi, capito? Ed è stato un successo incredibile di critiche e di clienti. Tant'è che l'abbiamo dovuta mettere nel menù. L'abbiamo chiamata la mano di Dios, è stata l'unica idea buona di Vito, poi è svenuto. Era l'unica pizza che costava 17,50 euro e la compravano tutti, e ci credo. Ma voi l'avete mai vista la gente che va nei ristoranti? Non ci capiscono una mazza. Sono come quelli che vanno dal meccanico. Te perché vai dal meccanico? Perché non ci capisci una mazza di motori? Eh? Se ci capisci qualcosa di cucina, stai a casa e ti cucini due robe. Non è che vai da Vito Maradona a spendere 17,50 euro per una pizza con gli avanzi. Non sarai un patacca, no? E poi più si sale di livello e meno ci capiscono. Basta che spendono tanti soldi, allora assaggiano i vini, rimangono indietro piatti, vengono in cucina da te a farti i complimenti, a darti dei consigli. Ma cosa mi consigli che non ci capisci una mazza? Ma vai a cagare, no?